Incontri di Gianfranco Fabi. Una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Una vita da mediano con Ligabue, iniziamo la trasmissione di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buon pomeriggio ad Alessandro Trapani. Buongiorno. Alessandro Trapani, prima di dire chi è, cosa fa, gli chiedo: una vita da mediano, si riconosce in questa canzone? Le piace il calcio, le piace Ligabue o c'è qualcosa di particolare? No, non è che mi piaccia particolarmente il calcio, mi piace molto la canzone, ma condivido molto il significato. In un paese, in un mondo in generale, dove tutti sognano di diventare o di essere dei goleador, quindi dei finalizzatori, per avere, come dire, le luci della ribalta, il capire quali sono i propri limiti e mettersi a disposizione della squadra mi sembra un atto quasi di eroismo. Cioè volere fare squadra più che diventare leader. Assolutamente sì. E poi alla fine, come dice la canzone, casomai si vincono anche i mondiali. Ogni tanto sì, non sempre, ma ogni tanto sì. Ecco, lei Alessandro Trapani è titolare dell'azienda Demi, un'azienda sarda, come sardo forse l'avete capito, e anche la sua provenienza, ed è presidente di Assosistema. Cominciamo dall'azienda, che cosa fa la sua azienda? Ma la Demi si occupa fondamentalmente del servizio di lavanderia industriale per enti pubblici, quindi ospedali, case di cura, ma anche una divisione che fa lo stesso lavoro in qualche modo per strutture private, quindi grandi alberghi fondamentalmente, e la ristorazione che afferisce ai grandi alberghi. Ed è un'azienda sarda in Sardegna? È un'azienda sarda localizzata in Sardegna che fa parte di un gruppo di aziende delle quali io non sono il proprietario, la correggo, diciamo la gestisco soltanto, radicate nel territorio sardo e che danno anche una discreta occupazione. Siamo all'incirca 500 dipendenti. Beh, quindi non poco in una realtà come quella sarda, indubbiamente. Sì, è molto difficile. Ecco, quindi anche Assosistema è un'associazione che comprende aziende di questo tipo. La definizione è associazione della Confindustria del sistema integrato di beni e servizi tessili e medici affini. Quindi è un'associazione che riunisce le aziende di servizio verso appunto ospedali, alberghi e cose di questo tipo, come lei descriveva prima. Certo, certo. Per avere chiaro di che cosa ci occupiamo, normalmente abbiamo calcolato che all'incirca 3 milioni di italiani quotidianamente usufruiscono dei nostri servizi, sia che purtroppo si trovino ricoverati in un ospedale, in una casa di cura, sia che per loro fortuna o per lavoro si trovino in una struttura ricettiva alberghiera o vadano a mangiare in un ristorante. Tutto quello che è di tessile, ma anche non di tessile, col quale vengono a contatto è trattato da noi e anche di nostra proprietà. E quindi è anche molto importante per un profilo proprio di salute, di igiene, di qualità della vita, di qualità del prodotto, quindi voi garantite questa qualità. Come è cambiato negli ultimi anni questa professione, questa attività? È cambiata tantissimo, c'è stata proprio una rivoluzione copernicana, perché all'inizio i dispositivi, i tessili che trattavamo erano totalmente di proprietà dei nostri committenti, quindi gli ospedali, quindi gli alberghi. Dopodiché ci hanno chiesto di acquistarli per loro conto, il che ha significato un aumento considerevole dei dispositivi in circolazione. Ma la cosa che è più cambiata è l'aspetto e l'attenzione sull'aspetto igienico. Oramai fare questo mestiere significa avere un numero notevole di certificazioni, di controlli. Alcune di queste certificazioni ce le siamo addirittura inventate, proprio per dare la garanzia all'utente finale, più che al committente intermedio, che tutto quello con il quale entrava in contatto fosse, da un punto di vista igienico, assolutamente perfetto. Ecco, ma ci sono delle specifiche, dei capitolati di appalto, delle normative magari europee su questo fronte che devono essere rispettate per garantire la qualità di un servizio come questo? Certo che sì. Certo che sì. Diciamo che per le nostre aziende, le aziende del nostro settore che si occupano di sanità, Queste normative sono abbastanza vecchie, perché tutti gli ospedali, tutte le case di cura chiedono ai loro le aziende, alle ditte d'appalto, che abbiano determinate caratteristiche e che riescano a dimostrarle. Un po' più difficile che questo accada nel settore turistico alberghiero, dove ancora si fa fatica a far accettare il concetto che il servizio deve essere, che quello che conta alla fine non è soltanto il prezzo, ma che ci sia una qualità, che non è soltanto la qualità del lenzuolo stirato bene o dell'accappatoio piegato bene o del tovagliolo di un bel colore, ma che igienicamente quello col quale quotidianamente gli utenti vengono a contatto sia perfetto. Questa è la nostra frontiera attualmente verso questo settore. Ecco, quindi il vostro sistema, Assosistema, questa associazione confindustriale, rappresenta un po' aziende di tutta Italia, perché le aziende di questo tipo devono avere un ambito di lavoro abbastanza definito, hanno bisogno di collegamenti, hanno bisogno di strumenti, hanno bisogno di non possono essere molto lontane dal luogo dove offrono i loro servizi. Quindi è una realtà diffusa su tutta Italia. Ha detto bene, è proprio così. A parte qualche azienda, diciamo, che ha diversi stabilimenti, diversi siti produttivi localizzati in diverse regioni italiane e che ha delle dimensioni importanti, ne abbiamo una che è quotata in borsa addirittura, che ha all'incirca 1200-1300 dipendenti e che assicura il servizio nel settore ospedaliero per tutta l'Italia. Le altre aziende sono molto localizzate sul territorio, con un ambito, diciamo, con un raggio di azione che all'incirca è attorno ai 200-250 km, che fa sì che siano veramente legate al territorio di appartenenza e quindi con tutte le ricadute che ci sono, grande attenzione all'occupazione del territorio, quindi c'è una sensibilità a quello che succede nel proprio comune, certo, e nella propria provincia, importante. Quindi anche un'attenzione maggiore verso il territorio, un'attenzione anche ad affrontare e risolvere i problemi. Quali sono i problemi che vi pongono, che pongono quello all'associazione all'interno della Confindustria, i vostri associati, problemi maggiori, più rilevanti, proprio a livello di normativa, di contrattualistica, di rapporti con lo Stato, le autorità o anche con i sindacati, peraltro? Ma diciamo che fondamentalmente uno dei problemi più importanti che ci vengono posti, sul quale ci siamo attivati molto, è l'annoso problema dei pagamenti ritardati, che coinvolge sia la pubblica amministrazione, anche se vedo che ultimamente i provvedimenti del governo, l'attenzione si sta su questo punto focalizzando. Lo stesso problema ce l'hanno le aziende del nostro settore, che hanno dei committenti privati, dove questa situazione di crisi ha ancora di più aggravato le problematiche. Perché è vero che lo Stato paga in ritardo, ma è solvente. Invece i privati spesso non solo non pagano in ritardo, spesso non pagano, sono insolventi. Normalmente non riusciamo neanche a farci, come dire, scontare delle fatture in banca, perché non, anche da clienti importanti, privati. Anche con le banche c'è qualche problema, qualche ristrettezza al credito in questa fase. Sicuramente sì, devo spezzare una lancia a favore delle banche, nel senso che quando le aziende sono serie, sono aziende che hanno sempre operato bene, le banche normalmente, anche se la situazione è quella che è, un po' più stressata, tendono a darci una mano. Se adesso potremmo utilizzare questa dilazione sui mutui, per esempio, e non soltanto, ma non ci restituiscono indietro le fatture non onorate nel giro di qualche mese, ci hanno dato una grossa mano. Incontri. Una vita da mediano, lavorando come oriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Ancora con Ligabue, una vita da mediano, botte, fatica, ma qualche volta si vincono anche i mondiali. Appassionato di calcio, è con noi Alessandro Trapani, presidente di Assosistema. Appassionato di calcio? No, non molto. Diciamo che mi piacciono più altri sport. Il calcio lo seguo come tutti gli italiani, ma non è che straveda per il calcio. Essendo sardo, non le chiedo se le piace la montagna, forse le piace di più il mare. Sì, il mare ha un fascino particolare per noi sardi, poi io sono sardo della Maddalena, quindi le immagini, se non mi piace il mare. Quindi un'isola su un'isola. Assolutamente sì, proprio una doppia insularità. Com'è la Maddalena? Si era parlato molto negli ultimi anni per il G8 che poi è slittato da altre parti. Adesso com'è la situazione della Maddalena? La Maddalena intanto è un paradiso, è una perla, è uno dei posti più belli al mondo, io credo. E tutto sommato è ancora incontaminato. Non vorrei far arrabbiare i miei concittadini e il nostro sindaco, però non ha una grande vocazione turistica. Cioè non ha una vocazione nel senso che non ci tiene il turismo? Non ci ha mai tenuto, non si è mai sviluppato, c'è un turismo di seconde case, non ci sono alberghi probabilmente, o non ci sono alberghi di un certo livello, certo. Probabilmente perché insomma è piccola, per cui gli alberghi di un certo tipo prevedono delle spiagge private che lì non sarebbe possibile certo. Avere, per cui non c'è una grande vocazione turistica, una grande vocazione al terziario, è sempre stata una cittadina che si è appoggiata molto sullo Stato, quindi l'arsenale militare, le scuole della Marina, quindi da un punto di vista turistico non vedo un grande sviluppo, tant'è che mi sembra che si sia già bloccato. Beh, comunque ci sono altre zone anche vicine della Sardegna che stanno sviluppandosi, qualcuno anche un po' disordinatamente, un po' troppo. Forse mancano appunto delle grandi strutture inserite bene nell'ambiente. Voi avete appunto tra i vostri clienti come fornitori di servizi, dicevamo prima, i servizi tessili e medici, sia gli ospedali sia i grandi alberghi. In Italia mancano un po' questi grandi alberghi, grandi strutture per un turismo di massa. Guardi, la contraddico parzialmente, nel senso che la Sardegna è quasi divisa in due. C'è una parte nord che è quella molto più glamour, col turismo della Costa Smeralda. Le do un dato, credo che gli alberghi dell'ex Ciga, che adesso forse si chiama Starwood, gli ex alberghi della Gacanna, sommano a 600-700 posti letto. Noi abbiamo una struttura, serviamo una struttura nel sud della Sardegna molto nota, credo che sia l'undicesimo anno che vince il premio come leading resort al mondo, che ne ha 1800. Quello Villa Simius, se sbaglio? No, quello ne ha addirittura quasi 3000. Che faceva parte dell'Alta Hotel. Ah, questa è dall'altra parte. Esatto. Ma possiamo anche fare il nome, forse è Forte Village. Sì, sì, è Forte Village, è Forte Village. Quindi diciamo che il sud della Sardegna, che ha un clima intanto migliore, nel senso che il caldo dura un po' di più, ha delle strutture ricettive importanti che vengono anche ben sfruttate durante l'anno, con adesso la crisi genera quello che genera, però presentazioni di modelli di vetture nuove che normalmente vengono fatte nei mesi morti, che portano dei convegni, congressi eccetera, sì, a parte il solito turismo, come viene chiamato, individuale, che è nei classici mesi luglio-agosto, che satura completamente tutte le risorse sarde. Ecco, la Sardegna appunto è vista come una terra di turismo, è difficile fare impresa in Sardegna? Sì, non è semplice, però devo dire che non presenta delle difficoltà come si presentano gli imprenditori in altre località del sud dell'Italia. La Sardegna è molto tranquilla da un punto di vista della criminalità, contrariamente a quello che si pensa, per cui lo è diventata, diciamo, la criminalità esatta. Il fuoco continua a stare sotto la cenere, ecco, però è un tipo di criminalità di un certo tipo, non esiste la criminalità organizzata, quindi gli imprenditori possono tranquillamente fare le loro attività senza aver paura di quello che normalmente capita. Altre parti, non c'è la mafia, insomma. No. Cerca di sbarcare, ma i sardi sono talmente tetragoni alle cose organizzate che non gli piace neanche la criminalità organizzata, figuriamoci. Quindi molto individualisti anche in questo. Sì. Ecco, abbiamo parlato di ambiente, l'ambiente molto bello della Sardegna, l'ambiente anche che è un'attenzione, mi sembra, tra le priorità che ha il vostro settore, la difesa appunto dell'ambiente. Di solito, anche qui come un po' come tradizione, chi fa un lavoro di lavanderia sporca perché deve togliere lo sporco e quindi poi resta restituisce qualcosa all'ambiente. Come è cambiato proprio tecnologicamente, nel rispetto della qualità ambientale, il vostro lavoro? Ma guardi, lei prima mi chiedeva come era cambiato in generale, io le dicevo che veramente ci sono state le rivoluzioni copernicane. Lei pensi che siamo passati da un utilizzo di quasi 18 litri di acqua per ogni chilo di biancheria prodotta, siamo attorno ai 4,5-5. E parallelamente è sceso anche il consumo dei prodotti detergenti. Il fatto che le strutture pubbliche, le strutture private si affidino ad aziende come le nostre ha ridotto drasticamente le emissioni di prodotti detergenti, di tensioattivi, non fosse altro perché noi teniamo alla qualità della biancheria che è nostra, non la vogliamo rovinare. teniamo i nostri soldi, quindi non vogliamo sprecare prodotti, per cui anche se non si crede alla nostra buona volontà di rispettare l'ambiente, si deve credere al fatto economico, ci teniamo particolarmente. Vi conviene essere ecologici. E proprio per questo sondiamo tutte le nuove frontiere, adesso siamo arrivati quasi, anzi senza quasi, a lavare senza detergenti, utilizzando delle tecnologie che sono di elettrolisi dell'acqua, quindi laviamo senza detergenti. Quindi si supera anche questo problema di smaltimento delle scorie? Assolutamente sì, tenga conto che siamo tra le industrie più controllate da questo punto di vista, proprio perché siamo localizzate nei tessuti storici, spesso urbani, i nostri scarichi sono monitorati, non esistono aziende che non abbiano depuratori e non esistono aziende che non abbiano delle autorizzazioni allo scarico molto molto ferre. Com'è nata in lei questa passione per la pulizia? Possiamo chiamarla così forse? Ma io facevo un altro mestiere, facevo il farmacista, pensi un po', tutta un'altra cosa. Ho iniziato a fare questo lavoro proprio occupandomi, era contiguo al settore delle lavanderie che si occupavano della sanità. E dopodiché sono stati una serie di passi successivi per cui me ne sono occupato a 360 gradi. Però le devo dire che è una grande soddisfazione, un grande orgoglio far sì che i nostri concittadini, i miei parenti, i miei amici, quando vengono ricoverati in un ospedale abbiano un'assistenza alberghiera di tutto rispetto, così come gli stranieri che vengono in Italia, contrariamente a quanto succede spesso nelle loro nazioni, si trovino un tavolo apparecchiato bene, non un pezzo di carta o certo, un qualcosa con sotto una spugnetta che chissà che cosa ha pulito. Lo stile italiano, noi preserviamo lo stile italiano, siamo i maggiori acquirenti di biancheria italiana. Sì, ci piace vivere bene, ci piace la qualità, ci piacciono le cose fatte bene, ecco, questa è forse anche una filosofia che dovrebbe ispirare tutte le imprese nel loro settore. Come vede il futuro dell'economia italiana? Se è possibile dare anche un giudizio così, magari un po' generico e generale, ma sempre interessante dal suo obiettivo, dal suo punto di vista. Lo vedo bene, gli italiani normalmente, purtroppo, quando si tocca il fondo hanno degli spunti e degli stimoli per risalire incredibili. Credo che, forse ancora no, ma probabilmente diciamo siamo vicini al fondo, per cui vedo molte energie, molta positività, vedo una ripresa che deve essere una ripresa etica, morale. Se non c'è una ripresa etica, una ripresa morale, tutto il resto conta poco e troveremo degli escamotage. Dovremmo diventare dei mediani. Ecco, forse superare un po' anche quei personalismi che ci sono, quegli individualismi, anche quei localismi che cercano di difendere un po' il proprio territorio, nel senso che forse abbiamo passato l'anno scorso celebrando i 150 anni dell'Unità d'Italia, ce ne siamo dimenticati un po' in fretta di questa unità nazionale, ecco, vista dalla Sardegna forse è ancora più importante. Sì, anche perché noi veniamo considerati quasi storicamente come dei separatisti, mentre invece le dico che ci sentiamo molto legati al nostro paese, ci sentiamo veramente legati al nostro paese. Delle cose che sembrano banali, ma poi alla fine banali non sono, l'impegno nelle missioni di pace della Brigata Sassari, che come dire raccoglie, come dice il loro stesso inno, la meglio gioventù sarda. E lo fanno senza recriminare, lo facciamo senza recriminare, non diciamo andiamo a fare un servizio per l'Italia soltanto perché ci pagano, consideriamo un onore, un privilegio. Quindi non è vero che pensiamo di essere un'altra cosa, io mi auguro che tante altre regioni d'Italia possano ragionare in questo modo, pur avendo una storia, un vissuto analogo a quello nostro, certo. Se non ce l'abbiamo noi, figuriamoci gli altri. Come vede i giovani in questa fase, i giovani che tentano, che hanno molte difficoltà a trovare un lavoro, le vostre imprese sono aperte ai giovani nei limiti del possibile, ovviamente? Le nostre imprese sono sicuramente aperte ai giovani, alle giovani. Abbiamo un'occupazione femminile che è quasi, credo, il 90% dei nostri occupati. Siamo tra i primi settori forse in Italia che ha questa attenzione, ovviamente per la tipologia del lavoro. Però io ai giovani credo tanto. Naturalmente se noi, che abbiamo una certa età, gli lasciamo spazio. E lasciare spazio significa non andarcene in pensione perché non ci fanno andare, ma lasciare spazio nelle cose che importano, nelle cariche, nelle opportunità. Invece vedo che c'è sempre la tendenza anche a 70 anni, a 65 anni, per carità dell'età nelle quali gli uomini e le donne possono ancora dare molto, a star lì, a non vivere un po' di rendita, magari senza aprire degli orizzonti. Sì, sempre tornando alla vita da mediano, devi andare a lasciare posto. Anche i mediani possono fare gol. Bisogna lasciare posto ai giovani, lasciare posto a essere generosi, come fanno tanti imprenditori che per la seconda generazione, cioè per i loro figli, non aspettano di avere l'Alzheimer per lasciare le redini, ma le lasciano quando hanno ancora qualcosa da dare, da impostare, costruire, da aiutarli. Grazie, grazie. Con questa visione aperta, con questa visione costruttiva, concludiamo questo incontro con Alessandro Trapani, che ringraziamo di essere stato con noi questa domenica, presidente di Assosistema, associazione della Confindustria del Sistema Integrato di Beni e Servizi Tessili e Medici e Affini. Così come ringrazio Paolo Corleoni in regia, Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie ancora. Buona domenica.